io. Oh, il mondo è giusto, ma ormai ci ho preso gusto a guardare gente in ogni posto che commette errori per ogni costo. E il paese è sempre lo stesso ormai, Italia, Calabria, la regione dei guai. E mo non dimmi che non lo sai, la mala nominata nel posto, ma dai. Cos'è Crotone, Catanzaro, Vibo e Reggio? A sentire questi nomi non mi sento peggio. Questa è la terra mia e per me non è uno spregio. E Sernerone perché là sopra c'è di peggio. Abituato proprio a tutto, ogni cazzo di giorno un cazzo di lutto. Poi non ce la fai e dici adesso mi butto, con l'unica scusa che il mondo è brutto. Da quando ti alzi la mattina a quando dormi la sera, su tutto ti lamenti e dici che è roba vera, ma per noi è solo una lagna nera che si nasconde dietro maschere di cera. Oh. Sì. E nella vita c'è del male per tutti, tu prendi solo il tuo e del resto te ne fotti. Di come stanno gli altri a te non te ne sbatte, con l'ideale che tu reputi perfetto. E nella vita c'è del male per tutti, tu prendi solo il tuo e del resto te ne fotti. Di come stanno gli altri a te non te ne sbatte, con l'ideale che tu reputi perfetto. Yo. Sì, problemi per tutti, angoscia per tutti, la finta felicità ormai è per tutti. Santi distrutti, miti sfasciati, nell'era degli uomini che si sono incrociati. Non trovare finte scuse per i finti problemi, non far saltare ogni volta i miei cazzo di schemi. La tua parola è la tua vita e lo devi sapere, perché se ti giochi quella non la puoi più riavere. Il vero male è quello che non conosci, quindi o ti ammuti o ti afflosci. E adesso basta. Dove andremo a finire? Con delle macchine voglio scoprire la vita e il suo perché. Ma perché non state a casa? 8 miliardi buttati per non dare una casa a chi non l'aveva già. Sì.